No, sì. Mi eri scappata per tutti questi anni, ma adesso ti ho qui e le pagherai tutte. Questa è la super mega galattica Lydia Buchner, yeah. Ecco la sua voce. Ciao. Benvenuta Coxo. Benvenuta, accompagnata da due baldi giovani. Due baldi giovani. Sì, sì, molto carini anche. Vero che sono gnocchi? Sì. Discretamente gnocchi? Confermo. Ok, allora potete salutare, dite nome, ciao. No, nome, codice fiscale. C'è già Oscar Moroni che ci dice merde. Eccomi, vi ascolto, merde. Ma non si dicono le parolacce al corso. Ma non corso. È una parolaccia, merde. No? No, scusa, ne abbiamo tante che vediamo in televisione tutti i giorni. Ah, io non ho la televisione, forse per quello sono rimasta un po' fuori. No, comunque, qui abbiamo il super mega galattico Matteo Giovanardi. Sì, che non è quello giovane. Però discretamente gnocco. E poi il super gnocco galattico Pietro Anania. Ciao a tutto. A tutto, quello lì, lui è quello giovane, infatti sentite che il linguaggio sì, è nella ricerca. È incomprensibile. No, vabbè, ma è giusto avere una chiave di lettura, no? Perché insomma ci sono tutte queste barriere che vanno abbattute e voi che siete qui per parlare della zuppa, il Festival Internazionale della Zuppa, concorrete ad abbatterle. Va bene, questo si poteva dire dal vivo, no? Non è una parolaccia la gnocchi. Ah, vedi? No, gnocco, allora, no, gnocco allora, bolognese. Allora un po' a posto. Di... Va bene, e dopo questo vuoto cosmico... Bene, io ho fatto del mio meglio per introdurre il tema della puntata, finalmente l'avevamo detto, perché chi sale sul Cox una volta, Lidia la prima volta, adesso mo te tocca più e più volte, lo stesso voi due baldi giovani, però io c'ho più interesse nei confronti di quella donna. Chi sale sul Cox una volta è destinato a tornarci, voi non lo sapevate prima di venire qui, ma adesso siete fregati, siete coxati. E infatti la zuppa era già salita sul Cox qualche settimana fa, insieme ad altre balde zuppificatrici. Se vuoi i nomi ce li ho scritti, eh. Ma che redattore mi sei diventato, Pasquino? È perché è la tua festa. Ah, esatto. Sono precisissimo. Dai, citiamo le nostre ex, cioè furono coxonaute e torneranno. Forse mentivo. Ti aiutiamo? Aiutatemi, chi è che è venuta? Ah, la Silvia Cerpolini, giusto? Bravo. Esatto. Okay. E lei era la stilista o la comunicatrice? La stilista. Ah, quella mi è piaciuta tanto. Bene. E l'altra invece come si chiamava? Era la mamma di quel bambino che è stato il più giovane coxista di tutta la storia del coxo. Di tutti i tempi. Presumo fosse Claudia. Claudia. Claudia. Anche lei ci è piaciuta molto. È dovuta andare via perché doveva mettere a nanna il pupo, però sì, ce la siamo coxata lo stesso. In realtà era freschissimo lui. Sì, non ne voleva mezzo, si arrampicava dappertutto. È una foto esatto. Non si può vedere in radio. Non si può vedere in radio una foto, non so perché. Fedra, perché non si possono perché, vedere? Perché non stiamo ancora mandando la diretta Facebook. Ho capito. Siamo indietro. Siamo un po' indietro. Dobbiamo rinnovarci. Cozzo spaziale. Siccome ho la paranoia che mi vada via la batteria del allora computer. Li stai di nuovo mettendo tutti i jingle possibili e immaginabili e basta, dopo posso andare a casa. Fatti uno screenshot alle menzioni o registrati il jingle delle menzioni sul telefonino, nuove sperimentazioni. Ma non chiedere troppo adesso. Allora, l'abbiamo detto in maniera un po' così garibaldina. Oggi si parla della zuppa. La Santa Pasqua. Sì. No, parliamo della zuppa, che è il 5 maggio, quello me lo ricordo anch'io. Bravissimo. Come sai coi preparativi della tua zuppa concorsistica? Devo ancora comprare i primi ingredienti. Cioè, bene. Il resto non è che uno può comprare la verdura un mese prima, cioè, ma quanto manca? No, perché la tua sarà poi una zuppa vegetariana. A proposito, una zuppa freschissima. A proposito, sì. Entriamo nel vivo o prima mettiamo un branino così poi ci riordiniamo? Non lo so, sei tu alla regia. No, noi mettiamo un branino, fammi tirare fuori Homo Mini Loops, vediamo se per Pasqua va oppure secondo me non andrà mai adesso. Guarda, per proviamo con un bel 3 3 3 180 94 94 se volete. volete insultare chi sta facendo la regia in questo momento, o però senza dire parolacce, senza dire parolacce, oppure se siete Raio non ti sentiamo da un sacco di tempo. Raio, chissà che fine hai fatto, chissà che fine hai fatto, sarai fermo in tangenziale come tutti gli altri. Bene, noi proviamo a mandare oggi un secondo brano... me abbiamo un sacco di ascoltatori proprio perché sono tutti fermi in tangenziale. Bene, allora per loro Discard di Homo Mini Loops, vediamo se va. Sembra che sì. Sì, sta andando un po' di sottofondo, ma sì, sta arrivando, viene? Ok. Miracolo Pasquale ha fatto sì che Homo Mini Loops si sentisse anche questa trasmissione e ce lo teniamo in sottofondo, eh? Mentre noi invece qui continuiamo e riprendiamo. Basta finalmente con sta musica del coxo. Beh, sono contenta che abbia usato il negoziatore di parolacce. Non dice anche in inglese. Com'era in inglese che non... Enough with the music of the coxo. Sì, insomma, secondo me non è molto fedele. Comunque, ritornando a noi, la 200 qualcosesima puntata del Coxo è interamente dedicata al Festival Internazionale della Zuppa. E cosa ci raccontate? Vado io. Hanno estratto la paglietta corta. Sì, è capitata a me. E allora, il festival, come si diceva, sarà domenica 5 maggio. Siamo arrivati un po' lunghi con tutti i ponti, con tutte le ferie, con tutti questi. Dopo le feste istituzionali, la festa vera. Esatto, la festa vera. E c'è la prima grande novità, che è che ci spostiamo di pochissimo. E nel senso che prima eravamo da una parte del Virgolone, al Pilastro, a Bologna, adesso andiamo dall'altra. Prima eravamo su Via Salgari, quindi eravamo in tutto e per tutto una festa di strada, adesso passiamo al parco. E siete una festa di parchetto? E siamo una festa di parco, non so come si dica. E quindi chi ci trovava l'anno scorso ci trova, 2 anni fa in realtà, ci trova anche quest'anno, siamo molto vicini, saremo al parco Pasolini. Quindi con gli alberi che fanno ombra. Sì. Speriamo di appenderci dei mestoli, delle tovaglie, stiamo capendo. Sì, vogliamo decorare bene tutti gli alberi, sì. Avranno tutti la loro tovaglia, sì. Il loro strofinaccio, sì. Cucchiai, tutto. Stiamo lavorando da molto sulla decorazione del parco. Sì. Mm. Ma ditemi un attimo, uno che voglia venire davvero zuppista deve portarsi il suo gamellino? Decisamente sì, e stiamo redigendo il manuale dello zuppante come ogni anno, che poi insomma rilasceremo anche online, non i volantini li troverete in giro. C'è qualche anticipazione succosa per il coxo? La vera regola ovviamente è portarsi appunto la propria scodellina e il cucchiaino, così non c'è anche consumo con relativo, non sempre, possiamo anche... Ah, gettare direttamente dalla scodella alla bocca nelle fauci per potersi insomma un po' testare le varie zuppe che ci saranno. Ognuno si porta la scodella e il cucchiaio. Siamo vicini, le indicazioni nel parco Pasolini. Ah, è un haiku. Esatto. Ho fatto un haiku. Quando si avvicina la Pasqua, Stefano si esprime come se avesse un W tra il nome e il cognome. Esatto. Portare la scodella, questa è la grande regola. Sì. E rispettare il parco godendoselo. Ma per caso avete anche fatto magari mai una sorta di competizione per chi aveva la scodella più bella? La scodella più larga. Sì. Ero sempre un po' impegnato, non l'ho mai guardate. Eri impegnato a guardare quello che c'era dentro. Esatto. Mi sono mai soffermato sulle scodelle. Ecco com'è che sei venuto altrui. Così grande, che sei bello alto. Però è un'idea. La scodella più bella, no, però la zuppa più buona. La zuppa più buona. Dai, vuoi raccontare un po' le cose standard della zuppa? Come le funziona? Cose standard, sì. Per chi non lo conosce. Quella con più tradizione zuppesca. Beh, intanto lasciatemi dire 333-180-94-94 per chi volesse cogliere l'opportunità di avere informazioni dirette dal cuore pulsante della zuppa organizzativa. Oscar Moroni chiede se c'è della gnocca a sta festa della zuppa. Io posso, sì. Posso rispondere anch'io, è facile. Sì. Come in quasi tutte le feste che... Quindi andiamo come si deve di Bologna. Bene. È un tipo di zuppa la gnocca? Sì. No, è uno dei significati della parola. È un tipo di, è un tipo di gnocca, la zuppa. Va bene. Ok, dopo questo ennesimo vuoto coxico elargito dalle comunicazioni del nostro grande ascoltatore, colonna portante del programma Telegram, GIFO. Lo sapevi che da adesso abbiamo anche Telegram? Ci sono anch'io su Telegram, SMS, sai? WhatsApp, però manca ancora Signal. No, sì, manca WeChat per i nostri ascoltatori cinesi. Vabbè. Bene, sarebbe bene. Questo era un voto coxico alla seconda. Ritorniamo a noi. Stefano, sì. Mi sta scattando un momento. Mi sta scattando un attimo di ira. Mi stai facendo ritornare quella del primo anno di programma. Ok. Abbassami. No, non voglio. Ti abbasso? No, non ti abbasso. Ma non mi abbasso. No, no. Invece voglio tornare da Lidia, che ce l'ho qua e me la voglio spremere, e andiamo con le istituzioni della zuppa. La zuppa istituzionale. La zuppa istituzionale. L'ha detto Matteo, che ti passava la palla per le cose più istituzionali. Le regole della zuppa, praticamente. Le regole. Le grandi tradizioni. Alla che edizione? 12ª edizione. Wow. Perché un anno abbiamo fatto pausa e 2 anni fa doveva piovere e poi non ha piovuto. Ah. E quindi non l'abbiamo fatta. Però l'ultima zuppa veramente fatta era nel 2017. E adesso ci proviamo di nuovo nel Parco Pasolini, dove già tanti anni fa, ma neanche troppi, abbiamo fatto il mini festival della Partot Parata, che arrivava già lì nel parco nel 2013. Quasi come lo ricordo, te quasi la ricordi? Quasi. Amarcord, Lidia, Amarcord. Da spettatore me lo ricordo. Cosa? Da spettatore. Da spettatore. Ricordo. Ero anch'io spettatrice, in bicicletta. Ah sì? Mamma mia, sì. Quante persone. Ah, tra l'altro la bicicletta, noi consigliamo comunque a tutti quelli che vengono al Festival della Zuppa di venire in bicicletta. Almeno chi non porta la sua zuppa di minimo 10 litri, che è un po' difficile da trasportare in bicicletta, chi non è un zuppante in gara, allora è precato di venire a piedi, con la bicicletta, col triciclo, tutto quello che vuoi, con l'autobus. Correndo e di lasciare la macchina piuttosto se possibile a casa. E c'è anche un vantaggio. In ciabatte tangenziale si può venire, perché è vicino, no? La tangenziale. Ma quello è un po' vietato dalla legge, non per le ciabatte, però volevo dire che invece in fare così c'è un vantaggio, perché così svuoti meglio tutto ciò che hai in te e sei pronto per assaggiare molto e molto di più. Esatto, perché naturalmente sei munito della tua scodella, eventualmente del tuo cucchiaio, che poi potrai, dopo aver assaggiato una zuppa dopo l'altra, passi da tutte. Ma avete mai squalificato qualcuno per una zuppa troppo solida? Allora, noi no, gli assaggiatori forse sì. Okay. Correva voce, però noi non squalifichiamo. Noi accettiamo tutto. Ci sono stati casi di zero voti, che proprio neanche non mi dice neanche no. I genitori, neanche chi l'ha fatta, neanche se stesso. Questa cosa mi fa sorgere. Mi ricordo qualche zuppa che probabilmente gruppi di studenti, perché spesso le zuppe si fanno in gruppetti perché è più divertente. Certo. E allora erano la gruppa degli studenti che hanno svuotato semplicemente il frigo con tutti i resti che c'erano nel frigo prima di partire, e quindi questa zuppa ha avuto voti molto molto bassi, mi ricordo, perché erano semplicemente resti non pensati. Però come non ci sono, in questo caso la tua ricetta è segreta e la porti alla zuppa, poi la sveli, e quindi è permesso tutto praticamente, tranne che avvelenare chi arriva. Dunque il re è nudo alla festa della zuppa. Cosa vuol dire? Vuol dire che sveli tutti i tuoi segreti e dunque il re è nudo. Io ti guardo con sospetto da dietro quel monitor, adesso che mi sei così infuginato per arte. No, comunque è arrivato un messaggino. Dice: Coxo, saluti da Yuri e Artù. Cioè, li salutiamo indietro. Sì. Bene. E forse è arrivato anche un altro messaggino, però non so come interagire con questo coso. Non sai come funziona Telegram? No, sì che lo sai, ce l'hai. L'interfaccia di quello e quell'altro. Una videochiamata persa, interessante. Ah, proprio era per noi perché era alle 20:19. Va bene. Ah, sarà stato Giffo allora. Ma non lo so, dovremmo schedare il numero allora. Stai ascoltando Coxo Spaziale. Nel caso non te lo fosse, non te lo ricordassi. No, ma infatti io avevo una curiosità zuppesca. Ma ok, si è sempre detto la zuppa più buona, chi ha vinto questo, chi ha vinto quello. Ma la zuppa più cattiva? La zuppa più cattiva? È questa qui delle cose un po' avariate, oppure proprio la più cattiva che neanche si riusciva ad assaggiare? Allora, io sono sempre stato molto fortunato, anche perché c'è questa cosa che se stai un po' lavorando nel festival arrivi quei 10 minuti in ritardo, ne assaggi due. E quindi io sono sempre arrivato. Avendo sempre lavorato al festival, essendo ritardatario, sapevo già dove andare. Dal kebabaro. C'è Franco Grilli esperienze. Che chiede se parliamo di tagliatelle, perché evidentemente non ha ancora una radio in casa. gli rispondo: no, parliamo di zuppe. Bene. Tu hai sentito zuppe cattive? Quante zuppe avete all'attivo voi ospiti individualmente? Cioè, nel senso che ci avete partecipato, avete assaggiato? Allora, come organizzatore non hai molto tempo per assaggiare. La parte ludica è piuttosto per tutti gli altri. Tu corri. Le zuppe le facciamo per entrare nel mood prima del festival. Sì, cuciniamo tantissime zuppe per i pre-eventi. Ci nutriamo a zuppe per mesi. Ecco perché il vostro colorito l'incarnato è così soffice e ossigenato. Tra l'altro le cucina Pietro, quindi è tutto dovuto a lui. Bene, bene, mi interessa. Però zuppe cattive. No, dai, non ho mai avuto. Adesso quanto siamo come iscritti? Più o meno una cinquantina. Intorno alla cinquantina. Wow. Io non mi sono ancora iscritto. Sì, ma manca 51. Vedi. I last minute. C'è ancora tempo. Tipici. C'è ancora tempo fino al. Noi abbiamo scritto fino a 3 giorni prima della zuppa. Ma che cosa chiedete a uno che voglia iscriversi o a una? Vai, dei soldi. No, soldi no. No. Il sangue, una zuppa, un rene, una zuppa, boh. Una zuppa, una però zuppa. Minimo 10 litri, perché sennò non c'è per tutti. Ok. E soprattutto, non ha molto senso una festa della zuppa in cui ognuno si porta la sua zuppina da casa e se la mangia. Sarebbe una festina un po' tristina. No, ma quindi, allora, io voglio iscrivermi domani, come faccio? Allora, vai sulla pagina Facebook del Festival della Zuppa. Quindi Facebook Festival della Zuppa. Chi non ha Facebook? Festival della Zuppa Bologna. Ah, sì, perché è internazionale Bologna. Che poi mi finisci a Nancy. Parliamo. No, a Nancy, in realtà a Lille o a Parigi ci finisci se vinci. Adesso ne parliamo. Ok, con ordine. Franco Grilli, vieni con una zuppa allora. Mi dice che ci ascolta sempre Franco Grilli. Bravo Franco Grilli. Lui secondo me farebbe una zuppa fantastica. Si iscrive? Iscriviti, fai almeno 10 litri di zuppa e ti mandiamo a Parigi. Perché a Parigi va bene una zuppa. Qualcuno l'aveva già detto? Non lo so, forse sì. Forse sì, tra i loro amici. Bene, ritorniamo. Si va su Facebook, chi non ha del Festival della Zuppa di Bologna. Si va su cameredaria.it. Net. Quello è se non chi hai non Facebook. Ha Facebook, di Camere d'Aria magari parliamo un accenno dopo. Sì. E si trova il link in maniera molto facile per iscriversi al attraverso il modulo. E niente, ci si iscrive. Quindi c'è un modulo in cui mi chiedete nome, cognome, codice fiscale. No, nome, cognome della zuppa. Coordinate bancarie. Misura di seno. Ingredienti. Se sono segreti si possono omettere. E poi è tutto gratis. Aspetta, perché io ho... Sei allora, ingrediente segreto, no? Appunto, la questione era che dovevi dichiararli tutti. E infatti Stefano diceva: ma allora io se ho quello segreto non partecipo, sennò poi. Non lo so, vediamo com'è. Ah, vabbè, c'è un margine. Basta poi non metterlo, cioè voglio dire. Puoi anche mentire. Esatto. Oppure, da una tedesca non me l'aspettavo, è che è troppi sono anni che iniziamo. Ah, cavoli. Ecco la gaffa, l'abbiamo. Invece, come si dice quando anziché mentire non dici qualcosa? Ometti. Si può omettere. Si può omettere. Oh, mi sono dimenticato l'arsenico. Mi sono dimenticato. Esatto. Un allergene a casa. Adesso guarda, metto il link del festival. Ti iscrivi adesso? Dai, un'iscrizione Bologna. In diretta, Stefano. Un'indiscrezione in diretta, intanto che noi andiamo avanti col programma, che ne dici? No, ho messo nella pagina Facebook di Coxo Spaziale, sotto la nostra foto, il link della pagina Facebook del Festival della Zuppa. Per il nostro ascoltatore. Dovreste sapere che anche chi non ha Facebook può visitare le pagine, perché certo. Le pagine sono sempre aperte. Certo. A parte il fatto che Facebook ti chiede di iscriverti ogni 3x2, per cui qualunque tu cosa clicchi, fai. Lui ti chiede di iscriverti, però... Però c'è sempre giusto la, per promuovere la un po' il lavoro di questo Zuckerberg, capisci? Sì, no, che poverino serve. Zuckerberg. Scrive il nostro fan numero uno, chiede: Camere d'Aria, dove si è esibita quella gran gnocca della Irene Curto? C'entra? Dove si è esibita Irene Curto si è esibita a Camere d'Aria? Ha fatto lo spettacolo. Allora sì, esatto, la risposta è sì. Bene. Glielo scrivo anche su Facebook così è contento. Sì. Allora bene. Scusate, a questo punto, visto che riprendere via del discorso al momento è impossibile, vogliamo continuare con quell'altra cosa che a metà del programma di ogni coxo ci dà sempre un po' di struttura? Un pochinissimo di struttura? Tipo... Dai. Sì. Sì, ti ho preso un po'. È che non ho gli occhiali. Come no? L'angolo della menzione. Mentivo. Allora, innanzitutto la prima menzione ha a che fare con me e te, Fedo. Tu lo sai che il 25 aprile dalle 12 alle 13 Coxo Spaziale è al Pratello Resiste? Dalle 12 alle 13? Dalle 12 alle 13. Le 12 sarebbe mezzogiorno, non ti presentare a mezzanotte perché sennò... Ma che io cozzata! Una diretta radiofonica dal Vanilla. Coxo Spaziale partecipa alla diretta di Radio Città Fujiko che inizia col direttore Alessandro Canella dalle 10 di mattina e si concluderà con DJ delle trasmissioni di Fujiko fino alle 19 del giorno della liberazione. Ma Stefano? Sì? Noi due non siamo prima del direttore, vero? No. Ok. E non siamo neanche subito dopo. Noi siamo il direttore dalle 10 alle 11, ma noi siamo dalle 12 alle 13. Cioè abbiamo un cuscinetto di mezzo. Abbiamo un cuscinetto di mezzo in cui lui ci può pungolare e sgridare come al solito. Bene, bene, bene. La seconda menzione invece è una cosa abbastanza particolare. Il 26 aprile alle ore 21 Alberto dopo. Camerini suona... Il tuo amico. Esatto. Suona a Ascheggia. Cioè a questo posto che si chiama Ascheggia, che io non conoscevo. Ma è un posto o un luogo? No, o un paese? È un posto, cioè è di fronte allo stadio. Tutto attaccato a Ascheggia? No, staccato. Esatto. Underscore. Per cui, concerto di Alberto Camerini più internazionale trash ribelle. E Stefano in prima fila. Io in prima fila, naturalmente. 26 aprile forse anche no. Comunque, artista attento ai mutamenti dei gusti musicali, in chiave punk. Nei primi anni 80 è considerato l'Arlecchino del rock italiano per la gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo e per la diretta citazione che ne ha fatto in uno dei suoi brani di maggior successo. Te lo ricordi? Il suo brano di maggior successo? Cioè ha venduto 18 milioni di copie con Rock and Roll Robot presentato al Festival Bar del 1981 e lo troviamo dal vivo appunto a Ascheggia in via Andrea Costa 169B. L'ingresso, ahimè, è molto costoso. Però lo vedranno domani su www.coxospaziale.com. 5 euro. Va bene. E per riprenderci da camerini, io ti propongo il secondo brano della puntata di Homo Mini Loops. Ancora, sempre Homo Mini Loops. Sentiamo questo Michè come comincia, vediamo. Ma quanto ti pagano per mettere solo gli voglio tanto bene, gli voglio bene Homo Mini Loops. Ah sì? Sì? È lui il tuo fidanzato nuovo? No. Anche questa si sentiva, la teniamo in sottofondo, la tengo in sottofondo perché qui la puntata scalpita. Questo non era Google Translate. Però l'hai pronunciata bene, Stefano. Guarda, gli potresti proporre una collaborazione a Google. No, sono arrivati un sacco di messaggi, Che qua la zuppa è contaminante. Allora, uno che non era per noi. Però è sempre piacevole. Un altro che parla male del tuo Homo Mini. No, dice auguroni di cuore, di buona Pasqua a tutti i DJ e le DJ. Beh, quindi anche noi della radio. Ciao da Alle da Modena. Quindi ci si ascolta anche da Modena. Alle da Modena, sì. Ciao. Che è già stato salutato 8 volte nel corso della giornata. Oh no, invece questo è per noi. Ah. Domandona, siete pronti? Vai. La zuppa inglese è valida? Questa non lo so. Non so se in una pentola, no. Io ricordo che un paio di anni fa, quando la zuppa era ancora a corticella, c'era uno che aveva fatto la zuppa inglese, aveva fatto un bellissimo disegno sulla pentola della regina Elisabetta e non potevamo non accettare. Sì. Per cui la risposta è sì. Se la presenti bene, sì. Se poi ci riesci pure ad andare a Parigi, genio. Se la fai liquida, anche meglio. Però a Parigi non so quanto sarà benvenuta la zuppa inglese. Ah, questo non lo so. Forse è meglio andare a Lille. Forse è meglio andare a Lille e sì. Eh sì, che è già più lì. No, allora, ritorniamo a noi. Abbiamo, Lille. Nonostante tutte le... C'era un'altra domanda. Sui crostini. I crostini. Chi li fa? Chi li fa? Cioè, chi porta i crostini? No, sono accettati i crostini nella zuppa o solo cose liquide? No, nella zuppa ci saranno anche robe un po' più, no? Stanno decidendo in questo momento. Si guardano e stanno decidendo. È molto emozionante tutto qua. Uno scoop cossico. Esatto. Per me sì, io li ho già sentiti. Allora, in tre uno ha votato sì. Io li ho già mangiati. Sì, lei li ha mangiati, sì, per cui sì. Sì, può portare, sono consentito. A me sì. Però perché è così dal basso il festival, che quelle le decidono chi partecipa. Quindi sto guardandoci per dire è successo. Allora nel dubbio ammettiamo. Ma quindi io ho un'altra domanda. Ma è mai morto qualcuno alla festa della zuppa? No, sono resuscitati. Sì. Poi dopo sono Pasqua. Sono usciti più vivi di prima. Ok. No, invece invece l'alcol è consentito all'interno della zuppa. Ah, un tema. Come ingrediente? Sì. Come ingrediente, sì. non è che l'alcol lo metti e si sfuma? Si sfuma. Dipende da quanto ne metti, però si dipende anche la cosa. Per però cui si sfuma. Presumo che la risposta sia sì. Anche quella. Ma secondo me Stefano sta mettendo le mani avanti per la sua ricetta, così da essere più gradito. Da... Tanto non sono loro che votano, Stefano. No, anche Franco Grilli dice: i crostini nella zuppa possono starci, però non fitti. Fitti è italiano e bolognese. Cioè fitti vuol dire non troppi, perché se ne metti troppi dopo stanno tutti fitti, dopo si ingrossano. Va bene, scusami Stefano scusami, ma qui il tempo comincia a stringere e noi abbiamo tanti contenuti da esprimere in maniera ordinata e comprensibile. Dico bene? Sì, abbiamo un'abbondanza, sì. abbiamo l'organizzazione, il cuore, non l'ascolterò mai. Sono anche un po' d'accordo a questo punto, ti dirò. No. Allora, io Coxo Spaziale me lo ascolto sempre quando lo faccio e do molta attenzione e rispetto e amore e passione ai miei ospiti. Grazie. Ospiti. Oh, così. Comunicatemi. Ditemi, allora stavamo dicendo prima nel fuori onda che potrebbe essere interessante parlare anche un po' della proposta artistica, oppure prima facciamo una sorta di spiegazione del com'è essere dentro il festival, come ci si partecipa, che abbiamo già fatto. Pensavo com'era essere dentro una capita. Ma nessuno ha mai fatto il pentolone con dentro quello che bolle nel pentolone, presente la vecchia raffistissima rappresentazione degli africani. È troppo creativo questo uomo. Mi stanno dando un sacco di consigli ai giocatori già iscritti, se ci state ascoltando. Prendete. Questi sono riti propiziatori. Sì. Ah, okay. Quindi li fate voi il giorno prima. Fate il bagno nel pentolone. E soprattutto lui che è antropologo. No. Ogni anno uno si sacrifica. Un workaway di associazione oltre viene zappato. La settimana enigmistica avrà smesso di fare quelle battute, chissà. È un po' che non la compro. C'è una pagina tipo 7 anni. Ok, allora ritorniamo alla questione. Andiamo prima con la proposta artistica, che almeno quella l'abbiamo nominata. Sì, andiamo prima con la proposta artistica. Perché la zuppa è una giornata intera. Da che ora a che ora? Come si organizza? Come si snocciola? Se avete una zuppa da portare, ci vediamo al parco alle 3. Si scaldano le zuppe, vi viene assegnato il tavolo, si prepara e ogni zuppante prepara un po' il suo tavolo in maniera di solito un po' carnevalesca. Ci si scrive per cortesia. Siamo legati al carnevale questa edizione, tra l'altro. Sì? Abbiamo un sacco di temi carnevaleschi. Tant'è che alle 4 bisogna essere lì, zuppanti e non, perché parte Corretto Samba più Samba Radam con una parata batucada tipicamente brasiliana e dal via alla zuppa. Quindi io sono appena stato in Brasile, devo dire che non abbiamo nulla da invidiare. Una zuppa aperitivo alle 4 di pomeriggio, giusto? Adesso l'inciso lo apro io, che Samba Radam è questa istituzione ormai ed è nata proprio in seno alla Parata Bartot, promotrice, ancora meno di attrice, da invidiare il carnevale. Realizzatrice, tuttrice Lidia Buchner, che si scrive col CH, finalmente l'ho imparato. Quindi si parte con una parata, dopo si iniziano gli assaggi di zuppe e tra le zuppe avremo vari artisti a esibirsi. E ci sarà il gruppo Murga di Bologna, che è un altro tipo di esibizione carnevalesca, sempre sudamericana ma dell'Uruguay. E abbiamo proposte per i bambini, quindi si può anche aperto alle famiglie, non solo ai giovani studenti. E nello spazio bambini, tra l'altro, abbiamo due laboratori fatti da un'associazione francese in scambio, giusto? La Fabrique des Impossibles. Esatto, non so se vuoi dire. Che la Fabrique des Impossibles è un nostro partner anche da moltissimi anni e verranno qua e faranno i volontari da noi. ci danno una mano e fanno anche due lavoratori artistici. Sì, uno di costruiscono un collage partecipato, quindi in realtà aperto non solo ai bambini, ma bello, lo spazio a bimbi aperto a tutti come sempre. E invece c'è uno più mirato di costruzione di burattini a guanto e ci sono varie anche incursioni clown di Leila, grande personalità della zuppa, con i tigrotti di Casteldebole, con il suo laboratorio clown. Esatto, dei tigrotti. Che cos'è il tigrotto? Sono i clown piccoli. Di Leila, sono proprio suoi possedimenti clown. E la mandria. Ci sarà anche acroyoga per famiglia. Sì, bello quello. Invece per i giovani studenti che si vogliono ubriacare di zuppe avremo chi abbiamo. A parte la Murga ci sarà capoeira. E possono partecipare zuppanti e non gli zuppanti provano ad andare a Parigi e a Lille, tutti possono provare a vincere la Mesto Lotteria, che ci porta a casa qualche bicicletta da camere d'aria. E ci sono percussioni africane con i djembetà, abbiamo dei canti a cappella pirateschi. Ma vecchi, come fa a starci tutto in una giornata? Il parco è molto grande. Il parco ampio. È grande. No. Ah, quindi gli eventi saranno anche in contemporanea. Perché c'è uno spazio bimbi, c'è uno spazio tra le zuppe dove suonano gli artisti di strada e dove suonano, oltre a questi, Brigata Santera con cantautorato folk, ci saranno trampolieri, artisti di strada. C'è uno spazio circo. Sì. Con Cousteau e il suo spettacolo di clown sia di aeree, Marsereni, una combo Colombia-Italia, con un spettacolo sempre di giocoleria e clown e punto di giocoleria per chi vuole provare. Se c'è uno spazietto anche per Franco Grilli, ha detto che porta del prigione. Beh, lo troviamo, devi presentarsi alle tre che glielo troviamo. mi piace questo Matteo, proprio non butta via niente. E la Ninni, Erika Salomone con il suo gruppo, il suo laboratorio di giocoleria invece. E poi noi abbiamo nominato il palco. Ah, pensavo c'è anche il papa, dicevo, oddio, vuoi dire anche il papa? No, il palco. Se vuole. Ah, il palco. Se vuole può portare anche lui la zuppa. Cioè. Capace che succeda, non si sa mai. Com'è che allora Francesco, se vuoi venire alla zuppa, sei benvenuto anche tu. Assolutamente. Papa Francesco, dice papà. E direi sul palco che cosa succederà? Sul palco abbiamo i pop, abbiamo la banda del buco, ormai è istituzione della zuppa. Alle 7:30 ci sarà la premiazione. E cioè, dalle 3 alle 7:30 tutto così. Tutto questo. E non solo, perché una volta finita la premiazione... 7:30-10, dai. 7:30-10, a margine ampio, come sempre. Indicativamente alle 7:30. Diciamo che si finisce alle 11 e dopo le premiazioni dovrebbero suonare due gruppi. Ah, ok. Ok. Sì. Okay. Che... c'è la zuppa del Ramadan alle 8. Cosa vuol dire? Due gruppi che sono Bibot e Terza Classe, se no... Ah, ecco, no, infatti pensavo, sì. Dicevo, e si balla. Due gruppi che dovete ancora chiamare... No. Se no, la zuppa del Ramadan che cos'è? Perché comincia perché il 5 maggio... Comincia Ramadan. Sì. Quindi, nel senso, comincia la sera o la mattina? La sera. La sera al E quindi loro probabilmente non possono mangiare e assaggiare tutte le zuppe... Allora, come con loro abbiamo fatto un micro evento prima della zuppa, perché facciamo sempre prima della zuppa. Con loro che sono... Con loro l'associazione Al Kufran del Pilastro, che fanno un corso di lingua araba ai bambini per non perdere questa lingua qua in Italia. E allora fanno un gran pentolone con la zuppa che viene dato alle 8:10, quando esattamente c'è il sole tramonta. Okay. Al tramonto del sole. Che quella però se la mangiano solo loro, perché no, anche noi, anche noi, sì. Io penso che alle 8:10 il frigione di Franco Grilli sarà finito, però beh, digli di tenerne un po' da parte, scusa. Beh, tanto proviamo. Il frigione fanne, poi fanne si può anche mangiare più. Ma sì. Infatti le zuppe c'hanno il pesce, la carne, quelle sono tutte vegetariane. Beh, ci sono gli ingredienti apposta, perché così i vegetariani non buttano la faccia dentro una zuppa di manzo. Ma ce ne sono, cioè la prevalenza sarà vegetariana, mi immagino. Sì, anche per... Penso di sì. Per questioni però, economiche, visti i tempi. Forse non l'abbiamo ancora detto, che sono due giurie, no? Ah. C'è la giuria di qualità, che sono la persone... giuria di quantità, è quella che riesce a bere più zuppa in assoluto. Litri e litri di zuppa. Scusa, no, non ce l'ho fatta. No, vai pure avanti. Di qualità, che sono persone selezionatissime da noi, che assaggiano sono la anche metà un po' delle un zuppe. Po' fighetti. No. C'è anche Fedra. Ah, ecco, esatto. Come voleva si dimostrare. Non lo so. Non credo. Okay. No, siamo gnocchetti. E la seconda giuria invece? E la seconda giuria è la giuria popolare, nel senso, certo. Tutti quelli, anche tu, se non fai la zuppa, però se viene, poi hai un voto e dici, voti, qual è per te la zuppa migliore. Certo. Abbiamo le cabine elettorali anche noi. Ah, non c'è il televoto con no, l'SMS. Non siamo ancora arrivati, okay. Non abbiamo... Molto tra l'altro siamo rischi i brogli. Siamo meglio di Sanremo, perché è separata, cioè c'è popolare di qualità, così non si creano incertezze. Ma il voto è scoperto? Segreto. È segretissimo. Ah, ok. Bene. No, allora, a questo punto è arrivato un altro messaggione, che è così lungo che non sta nell'anteprima. Sono tre righe, quasi tre righe. Siete pronti? No. Iniziativa bellissima. aggregante come poche, allegra e zuppe ottime. Andiamo! Anche se non ci saranno i crostini che piacciono, piacerebbero a Lidia. Sono Nora. No, ci saranno i crostini. Ci saranno i crostini. Ci saranno, sì. Ci saranno. Beh, visto che è così partecipata, io rinnovo 333 180 94 94 per chi volesse ancora in questi ultimi minuti che abbiamo da spreme l'organizzazione della zuppa e chiedere qualche cosa in diretta. E cosa facciamo? Metto un altro branino giusto per o continuiamo così? Metto branino. Metti un crostino. Metto un crostino di Homo Mini Loop. Ancora? Ma scusa, ma è possibile? È la partecipazione. Il nostro unico ascoltatore non ne può più. E vuoi che ti metta il brano? No, che metti quello tu. Che vuoi. No, va benissimo. Vai, ma vai di Homo Mini Loop, così gli facciamo. Però non mi ricordo più quale ho messo e quale no. Perciò andiamo con uno dei tuoi. Ma facciamo cosa dici? Immigrant Punk? Sì, dai. Quello che lì che è un po' allegro. Girls Love No, Me. Metti Immigrant Punk, che è abbastanza allegro. Sono i Gogol Bordello. Ah, dai, sì, ci sta. Di più di Homo Mini Loop stasera. No, forse un po'. Emigrant punk. Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk, emigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Questa sera va così, tutti i brani vengono spezzati perché ci sono troppe cose che ancora dobbiamo chiarificare. Il testo di questa canzone era di Matteo Salvini. Ah, davvero? No. Bene. Bentornati alla Coxo Spaziale, siamo alla 262esima puntata e... interamente dedicata al Gran Festival Internazionale della Zuppa. Abbiamo qui in studio Lidia Buchner, Matteo Giovanardi e Pietro Anania, che sono pronti a darci qualche anticipazione sull'eventone del 2019, il 5 maggio al Parco Pasolini al Pilastro. Autobus numero 20, zona Virgolone. Però prima di allora, ci sono altri luoghi dove poter incontrare il clima zuppesco. Ad esempio, uno è il Pratello Resistente. Ok, mi sembra un posto giusto. Il 25, quindi settimana prossima, sì, ci siamo anche noi, vero Stefano? Mi ci ricordo siamo anche bene. Noi, dal vivo dalle 12 alle 13, ve lo ricordo. E viva la ribollita, dice Franco Grilli. E voi dove siete, quando ci siete? Dove siamo? Dove siete? Cioè, avete un banchettino? Un banchettone? Noi saremmo dentro al pentolone? Diasporici come... Ah, ok, bello. Saremmo vaganti come un profumo... Delle un zuppe? Profumo di zuppa. E avremo la zuppa. Immaginaria. Simbolica. È una zuppa. E naturalmente andrete in giro a spiegare come ci si scrive. Come vi si riconosce? No. Avremo la zuppa più piccola del mondo. Sì, la micro zuppa. Una mix. Quella che si inietta, quella la zuppa più piccola del mondo. Stefano, attento a ciò che dici, che i minuti sono contati. Ho smesso. Allora, quindi ci sarete in maniera diffusa al Pratello, vi incontreremo e sapremo riconoscervi in qualche modo. Sì. Abbiamo bandierine, ci faremo riconoscere, la cargo bike. Sì, saremo equipaggiati con con i potenti mezzi forniti dalla ciclofficina popolare Camere d'Aria. Dai, di due racconta. Camere d'Aria. Camere d'Aria è il quartier generale dell'organizzazione zuppesca. Dove si trova? Si trova in, in Via delle Ruote. Giusto a caso. È vero. E all'angolo con Via Guelfa. In Massarenti, in zona Massarenti. In zona, proprio vicinissimo a dove era prima la radio, peraltro. Sì. Ed è la vostra sede operativa, perché è anche la sede dell'associazione Oltre, e lì si fanno un sacco di eventi, dal teatro al pane, Oltre, giustamente. Alle biciclette. Sì. Bene. Confermo. Potete venirci a fare il pane, riparare le biciclette. Potete dormirci se siete artisti workaway. Cioè, non vi confondete mentre fate il pane. Che... No, e le biciclette. Esatto. Potete recitarci se siete attori. Ma al Pratello poi a un miscuglio. Distribuirete qualcosa. Qualcosa che spiega come iscriversi alla festa della zuppa. Ebbene, no? Sì. Ebbene sì. Ebbene sì. Avremo il volantino definitivo. Definitivo. Quello che è il PDF si chiama definitivo finale, si chiama, finale. Si chiama 1_2. _def, parentesi 3. Esatto. E basta, questa è andata bene. Ok. ci sono altri appuntamenti dopo il 25? C'è il 5 maggio, c'è la festa della zuppa, Fede, lo sapevi? Vabbè, no, non va mai. No, magari sì, invece. Consigliamo dopo il 25 una settimana di digiuno. E comunque c'è ancora tempo per iscriversi, come sarà scritto nel volantino Def. Sì, perché sì, il 3 dovete venire ad adiacenze alla sera, il 3 maggio sera. C'è una presentazione adesso. Però lo diciamo la settimana prossima. Ne parleremo la settimana prossima. Sì. Però intanto segnatevelo. Vogliamo la zuppa il 3? Beh, sarebbe bello fare una sorta di gemellaggio. Dai, zuppe da vernissage. Portate una zuppa. Va bene. Che non sappiamo mangiamo ancora dove, però. Sì. Adiacenze. È a Piacenza? È una galleria che si chiama Adiacenze. In che via? Che è? Non è Piacenza, non mi ricordo. È una traversina di Via D'Azeglio pedonale. Esatto. È presente dove stava Lucio Dalle? Esatto, Dalla. Centrissimo. Vai dritto, c'è una stradina piccola, e lì c'è questo bello spazio dove Pasquini andrà a fare qualcosa il 3, ma noi ne parliamo il prossimo Cox. Esatto. Qui concentriamoci su questo, che ormai ce l'abbiamo ancora per pochi minuti. Poi questi scappano. C'è un'altra domanda dal nostro pubblico. Può partecipare anche Lorenzo Sarno? Io rispondo io, posso? No, voi no, siete no, molto. No. No, io direi di no, però voi direste di sì. La zuppa latina, certo. Scusami. E allora, quindi, facendo un piccolo ricapito, vogliamo usare questi minuti per fare un piccolo recap? Facciamo delle cose. Recap. Va bene, quindi okay, bene. Ci vediamo il 5 maggio. Parco 5 Celini. Prima il 25 aprile al Pratello. Siete ancora in tempo, se volete partecipare come zuppanti, per partecipare da soli o in gruppo, meglio in gruppo, così vi divertite di più e vi fate votare. E con una zuppa ci si iscrive fino al 29. No. Fino al 2 maggio. Fino alla mezzanotte. Su Festival Zuppa Bologna su Facebook o su Camere d'Aria trovate il modulo Google con cui iscrivervi. E tutto gratuito, cucinate voi la zuppa. Se vi votano o giuria popolare, quindi il pubblico, o giuria di qualità, quindi quella del festival, andate a Parigi o Lille. Se no, venite a godervi il festival. C'è arte di strada. Se no, cioè... ve ne state al pilastro, sì, con la vostra bella zuppa. E poi naturalmente domani su www.coxospaziale.blogspot.com ci saranno tutti i link possibili e immaginabili. Sì. Oltre a delle pessime foto scattate dal mio cellulare di voi che parlate. Raccomandiamo la tazza. Sì, personale. Ciascuno la propria tazza e il proprio cucchiaio. Il cucchiaio. Consigliata anche una borraccia. Ah, sì. Faremo distribuzione di acqua pubblica. Pubblica gratuita, alcune volte fossero troppo piccanti, no? Sì, sì, sì. Sì, no, non bottigliette di plastica. No. Quindi borracce. Quest'anno siamo quasi completamente plastic free. Quasi completamente. Quasi completamente. ogni tanto ce lo chiedono, non ci sono solo le zuppe, non è solo il pomeridiano, si va dalle 3 fino a quasi mezzanotte e ci sono gruppi che suonano, circo, orte di strada e laboratori e sport. E basta, perché poi non c'è più spazio. E se volete farci un regalo di Pasqua, ah, sì, ecco, c'è ancora in atto per 9 giorni il crowdfunding della zuppa. Che trovate sempre su Facebook. Il festival è gratuito e lo è sempre stato per 12 anni, quindi... Vogliamoci bene. Quindi se volete pagare un biglietto del festival ogni 12 anni, noi quest'anno accettiamo. Ci fa piacere. E è importantissimo per quelli che la zuppa però... Nel senso, il crowdfunding va bene, facciamolo, però la festa la facciamo lo stesso. Che perché qualcuno diceva... Niente, la festa niente. Ormai... Va da sola. Va da sola. Per il 2019 c'è. Per il 2019 c'è. No, perché c'era qualcuno che diceva, ho visto che il crowdfunding non è ancora arrivato, allora vuol dire che non si fa, non vengo giù. No. Però vuol dire che si fa meglio, molto meglio. Sì. Comunque metteteci della fresca, così arriva e non se ne parla più. Va bene, allora adesso abbiamo qualche ultimo minutino. E io che sono un po' così, mi piace, ma qualche aneddoto, qualche cosa zuppesca che proprio vi ricordate, vi ha stupito, vi ha fatto ridere, oppure non vi aspettavate, oppure ve l'aspettavate, c'è stato... Lidia sta scorrendo il database. Una cosa che al volo non abbiamo detto su Camere d'Aria, ma che è sulla zuppa, perché la squadra è la zuppa, è Camere d'Aria, e la multiculturalità della squadra che sta lavorando. Cioè abbiamo un gruppo che non ha senso, perché c'è sono un gruppo argentino che sta lavorando. E dei bolognesi che sono rari a volte, non sì. da trovare. È da sempre, degli la volta è da sempre così. E poi Workaway abbiamo... dall'Uruguay, dalla Germania, dalla Francia, c'è lo scambio con la Francia, con ma cosa sarebbe Workawayer? Ah, sì. Sono una figura mistica che viene da lontano a lavorare. Sì. Vabbè, contro vitto e alloggio for free, e tu partecipi al lavoro di quello che fa quell'organizzazione in quel momento. Sì. Fantastico. Che figata. Sì. Vai, andiamo a iscriverci subito a Workaway. Ma a proposito, ma com'è che chi vince poi va a Lille o a Parigi o... Perché in fondo noi abbiamo mutuato questo festival dal festival di Lille, dove è nato il festival della zuppa. Eccola. Ecco. E però esiste in tante altre città, e noi abbiamo fatto anche nel passato progetti europei con Barcellona. È finito il tempo, andate a casa. Beh, però sì, sono arrivati gli spot in effetti. E allora abbiamo svelato all'ultimo l'animo veramente internazionale della zuppa. E allora saluto caldissimamente Lidia, che finalmente l'ho avuta qui in diretta e me la sono spremuta, poi anche Matteo Giovanardi e Pietro Anania. E anche Stefano dietro il monitor, Pasquini. Ui. Sei ancora là? Sì, no, se mi stavo sì. Dobbiamo salutare Fede, tardissimo. Sì, lo so. Questa era Coxo Spaziale, e grazie, e ci vediamo il 5 maggio alla festa della zuppa, ma anche prima il 25 aprile. Sì, anche perché noi col 26 sì, siamo qui il 25 e poi facciamo anche il 26, se non sbaglio. Assolutamente. No, il 27. No, 26, sì, va bene. Ma insomma, il prossimo Coxo c'è. Secondo me il 26, comunque va bene lo stesso. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Grazie.